9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno, buon mercoledì 28 marzo e auguri a chi si chiama Sisto Papa oggi nel nostro calendario liturgico. Sì, sì, Sisti ne ho conosciuti, non era come Ruperto, quell'ultimo due giorni fa che veramente non avevo conosciuto nessuno. Allora, ho sentito prima una pubblicità che diceva che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Secondo me bisogna riformularla questa dizione. L'Italia è una repubblica fondata sulle tasse, sulle imposte. Sono più di 50% del PIL. E se non è fondata sull'elemento prioritario, la repubblica, l'amara verità, ha ragione Piero Ostellino quando con Alessandro Milan prima del GR ricordava a chi era in ascolto su Radio 24 che l'impostazione di politica economica di questo paese resta quella incrementale di imposte e contributi per non diminuire un perimetro pubblico e una spesa corrente in costante ascesa da 20 anni a questa parte. Quando ricordava questo attribuendolo al governo Monti aveva sacrosantamente ragione. Io sono d'accordo con lui, questo è il più grande elemento di un governo in cui il Presidente del Consiglio mezz'ora fa ha detto che lui è popolare, i partiti no. I partiti avevano un giusto discredito, secondo me, tante volte, in tanti mesi, lo abbiamo detto, rispetto al fatto che sottovalutavano la crisi europea, per cui abbiamo ancora i DORS oggi. E ci sono, per inciso, nuove notizie purtroppo europee che non sono positive. Ma detto tutto questo, la mia opinione è che continua a fare di questo paese, con la sua pretesa fiscale incrementale, il fondamento, il pilastro di questa Repubblica, e non capisce che bisogna fare qualcosa di molto diverso, cedere attivo patrimoniale dello Stato per abbattere il debito pubblico, tagliare spesa pubblica per aprire lo spazio a meno imposte, e secondo me continua a mandare il paese sempre più in asfissia. Una lettera di ascoltatori come quelle che proponiamo ogni tanto prima di arrivare al punto di oggi, che è esattamente sulle tasse, e partiremo dal caso di Laurenti. Personaggio famoso, un comico che naturalmente di quelli che personaggi famosi che vengono ogni tanto messi nel mirino dalla macchina tributaria dello Stato perché è il nome della campagna contro gli evasori noti, che così fremete di sdegno a casa perché dite giustamente, ripeto, voi sottoposti al sostituto di imposta che voi non potete evadere, mentre eccoli lì gli italiani ricchi, famosi, che non lavorano ma si divertono, e gli autonomi, i commercianti, le partite IVA come me naturalmente, no, noi autonomi che camperemmo alle vostre spalle, come ovvio, vi scatenate quando c'è il nome famoso. È ovvio che però poi quando il nome è famoso le tasse le ha pagate e lo Stato gliene pretende di più, lui si impunta. Tenete conto che per impuntarsi significa dire al proprio commercialista e ai propri avvocati che ti consigliano di transare, stare muto, significa rischiare, perché intanto tutti i tuoi clienti e tutti i tuoi sponsor, nel caso di Laurenti, Lavazza, Grande Caffè, ti lasciano come capitava a Valentino Rossi, ti lasciano perché agli occhi degli italiani sei diventato un appestato, un untore, sei l'emblema dell'anomia sociale, sei la tabe, la peste, che quella sì è il vero problema dell'Italia, non i politici che vi succhiano il sangue dall'anima, no, naturalmente gli evasori sono il grande problema, sono loro che hanno moltiplicato la spesa corrente in 13 anni portandola a 630 miliardi di euro l'anno. Il totale della spesa ovviamente pubblica è oltre gli 800 miliardi. No, sono loro che l'hanno fatto. Ecco, allora, detto tutto questo, quando il nome famoso invece si impunta e non dà retta al commercialista o agli avvocati che dicono forse è meglio transare e fare la parte del buono, e rischia ancora di più così facendolo, e ha ragione, come nel caso di Laurenti, ecco che poi però lo Stato, come al solito, dice mica io adesso ti levo i pignoramenti. È ovvio, no? Lo Stato prende per sé subito il liquidità immediate, ma quando si tratta di pagare, come testimoniano i debiti commerciali dello Stato arrivati a detta di Corrado Passa, il ministro Passa, a 100 miliardi di euro, mica si paga lo Stato, ma mica si può pretendere che lo Stato adotti lo stesso rispetto implacabile delle norme che chiede da noi, pidocchi, sospetti, evasori che siamo. Dice, alzi la voce, caro Giannino, stai recitando, sei un miserabile difensore degli evasori. Vedo che iniziano ad arrivare puntualmente i messaggi. No, io sono scandalizzato. Sono scandalizzato perché il diritto calpestato da chi ne dovrebbe essere il custode è l'emblema del capovolgimento della realtà in cui viviamo in questo paese. Leggo una delle tante lettere di ascoltatori, sapete che quasi ogni giorno ci proponiamo di farlo per sottoporvi tanti casi di italiani che hanno nello Stato non un garante ma un purtroppo nemico, perché gli impedisce di andare avanti nella propria attività, professione, di andare avanti nei redditi. Allora ci scrive un ascoltatore che dice: io sono una vera partita IVA e quando ho iniziato a lavorare pagavo il 14% di INPS, riuscivo ad essere regolare, oggi pago il 27% ed ho accumulato 24.000 euro di debiti, gli unici debiti della mia vita, perché lavorando a sodo sono sempre riuscito a far fronte ai miei impegni. I miei impegni sono un appartamentino di 67 metri quadrati del 1998, una Fiat del 2000 acquistata nuova, una Chrysler Voyager del 2001 usata, acquistata nel 2005. Dal 2007 in poi, grazie a quel gran genio del ministro che ha pensato bene di colpire le partite IVA finta, io non ho potuto più cambiare auto, ma sono una vera partita IVA, cioè non solo un finto subordinato monocommittente. Le pare giusto questo? Su 55.000 euro di fatturato, se tutto va bene, mi rimangono in tasca 22.000 euro e devo sperare che tutti mi paghino e che io non abbia intoppo alcuno negli incassi, perché altrimenti in piedi non si sta. Seguono tutta una serie di considerazioni ovviamente sull'aumento della imposizione e contribuzione, e il sospetto che adesso, se nel ciclo dei pagamenti del prossimo anno per sei mesi è al 70% un solo cliente, quello nei flussi di cassa, diventerà una finta partita IVA, e a quel punto gli si potrebbe chiedere di fare la pratica per l'assunzione a tempo indeterminato. E la conclusione di questa lettera è quella puntuale di non levare ovviamente la canzone dei Doors. Allora, andiamo al caso di oggi, quello Laurenti appunto, e iniziamo a parlarle con Silvio Ceci, che è il fiscalista che ha difeso Luca Laurenti contro l'Agenzia delle Entrate. Non sempre, come vi ho detto prima, è il commercialista e gli avvocati ti consigliano di transare, per così dire, e di riacquisire automaticamente la patente del buono di fronte alle accuse e al calcolo diverso fatto dall'Agenzia delle Entrate e ai provvedimenti ovviamente cautelari di pignoramento che può assumere Equitalia. C'è chi combatte, chi si espone al rischio, e chi si espone poi naturalmente al rischio di fronte a una decisione favorevole, in questo caso a Luca Laurenti, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in sede di appello, che però lo Stato a quel punto i pignoramenti non te li leva. Come stanno le cose, Silvio Ceci? Buongiorno a tutti i tartassati, mi consenta di dire buongiorno a tutti gli ascoltatori. Niente, le cose stanno diciamo in maniera, come si dice, asimmetrica. Il fisco usa due pesi e due misure, perché quando il fisco diciamo vince passa subito all'incasso, ma quando perde non rimborsa. Quindi è stato presentato un ricorso in Cassazione da parte del fisco, noi abbiamo presentato un controricorso in Cassazione che l'avvocato Conforti del Collegio Difensivo ha presentato, e vedremo, diciamo, deciderà in ultima istanza la Cassazione. Siamo di fronte veramente ad una asimmetria fiscale. Malgrado la vittoria in appello, l'Agenzia delle Entrate almeno per ora non pagherà Luca Laurenti, purtroppo in base ad un assurdo principio di favore per il fisco. Quando a vincere è l'Agenzia delle Entrate, la sentenza diventa immediatamente esecutiva e possono essere messe cartelle esattoriali e scritte ipoteche, come succede spesso. Ma quando è a vincere il contribuente, la sentenza non può essere eseguita in modo, diciamo, definitivo. Quindi allora, aspetti un secondo, prima ripartiamo, questo è uno dei tanti aspetti della barbarie fiscale, e tenete conto che il principio del favor fiscale, del principio per il quale il fisco deve essere privilegiato rispetto alle ragioni dell'attore cittadino contribuente, purtroppo è vidimato, coonestato, confermato da tonnellate di sentenze della Suprema Corte, anche della Corte di Cassazione e financo dalla Corte Costituzionale. Questo che ai miei occhi, lo dico da studioso del diritto, è per così dire la pietra angolare del fatto che si è capovolto un presupposto, quello dell'articolo 23 e dell'articolo 53 della Costituzione, e si è capovolto con i giudici che non sempre hanno ragione, anche quando emettono sentenze, si è capovolto con i giudici che hanno riconosciuto il fatto che lo Stato ha preeminentemente ragione nei confronti del contribuente, quindi non c'è un confronto paritario da questo punto di vista. Questa barbarie però in questa vicenda nasceva da una pretesa che l'Agenzia delle Entrate entrava perché adduceva che era quella che Laurenti fosse un evasore per quale imposta? Per l'IRAP, si diceva, cioè non pagava l'IRAP, e perché l'Agenzia delle Entrate sosteneva che dovesse pagarlo, mentre invece poi in appello la Commissione Tributaria ha detto che aveva ragione Laurenti e i suoi professionisti a dire che invece quell'imposta non andava versata. No, quindi parte tutto dall'IRAP, Laurenti non doveva pagare l'IRAP perché diciamo non aveva un apparato organizzativo di persone e mezzi, quindi non l'ha mai avuto. Ha avuto solo un manager che gestiva diciamo tutte le sue cose, quindi non era un soggetto IRAP. Ma l'assurdo è che, pur non essendo un soggetto IRAP, Laurenti per onestà ha versato questa imposta. Quando poi si è consolidato diciamo tutta la materia, ha chiesto il rimborso di quell'imposta che aveva versato e gli è stato negato il rimborso. Quindi, una volta che gli è stato negato il rimborso, abbiamo dovuto fare diciamo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in primo grado e poi in secondo grado, che ci ha dato sentenza favorevole e ha riconosciuto che il rimborso è dovuto a tutti gli effetti. Tra l'altro è una materia diciamo chiarissima, che negli ultimi anni si è chiarita nei suoi dettagli, e quindi si sa che il professionista o l'azienda che non ha un'autonoma organizzazione, quindi non ha la segretaria, non ha il collaboratore, dipendenti, scrivanie, uffici, non deve pagare l'IRAP, ed è il caso di Luca Laurenti. Quindi ora, noi con coraggio abbiamo affrontato questa ingiustizia, però a ingiustizia diciamo si accolla altra ingiustizia. Ma tra l'altro l'Agenzia delle Entrate a quel punto non si è fermata ai 150.000 euro più o meno che Laurenti aveva versato per un'IRAP non dovuta e che poi di cui ha chiesto il rimborso. Aveva versato per prudenza. Esatto, per prudenza, è ovvio, diciamo, beh, cautelarmente, evitiamo che poi si pensano che io sto evadendo, però poi naturalmente sulla base del diritto e della mia natura di soggetto non sottoposto all'IRAP ne chiedo poi il rimborso. Ma oltre a quello l'Agenzia delle Entrate si è letto, in realtà ha accampato dubbi, per così dire, contestato fino a un totale di 2 milioni di euro. Beh, 2 milioni di euro, diciamo, la situazione di 2 milioni di euro è una situazione più complessa, ci sono altre cartelle settoriali, ci sono altri giudizi pendenti che andremo ad affrontare, di cui le commissioni tributarie ancora non si sono diciamo riunite ed espresse, diciamo è una questione un po' più complessa che andremo a definire diciamo più avanti, però non era tutta IRAP, c'erano anche altri tributi che sono comunque in contenzioso. Oh, l'Agenzia delle Entrate ha detto: noi abbiamo impugnato, non è vero, è falso che Laurenti agisse senza la collaborazione di diversi collaboratori, quindi restiamo della nostra idea. E quindi dobbiamo aspettare la Cassazione, purtroppo, per questa asimmetria fiscale e questo assurdo principio di favore per il fisco, perché, ripeto, il fisco usa due pesi e due misure: quando vince prende subito tutto, quando perde deve rimborsare, può temerariamente andare fino alla Cassazione, quindi dobbiamo aspettare la Suprema Corte che si esprima diciamo su questa chiara materia. Ormai la materia è chiarissima e il discorso di Luca Laurenti è diciamo molto chiaro. Ecco, dobbiamo appunto sottolineare l'onestà e il coraggio di questa persona che ha voluto intraprendere questo giudizio, supportata anche dal fiscalista e dal collegio difensivo, per affrontare diciamo il fisco armato. Però noi sappiamo che non tutti magari hanno la forza e il coraggio per affrontare delle ingiustizie di giustizia del caso, quindi vediamo un po', adesso aspettiamo un po' come vanno le cose. D'altro canto, nel giudizio ordinario le sentenze sono sempre provvisoriamente esecutive per entrambe le parti del processo, quindi ripeto, sarebbe sufficiente eliminare questa norma in favore del fisco, recuperando quindi le parti del processo tributario alle parti del processo civile. È una questione appunto di civiltà, di pari dignità, il fisco e il contribuente. In uno Stato di diritto come si proclama l'Italia dovrebbe essere così. Mi sembra veramente uno squilibrio ingiusto. E vabbè, ma naturalmente si dirà che la presenza così ampia di questi parassiti, insetti, che sono i negatori della coesione sociale, cioè gli evasori, appunto, non può che giustificare il fatto che il povero Stato si doti di uno scudo asimmetrico rispetto a quello che consente invece ai contribuenti nel contenzioso. Contenzioso che, ripetiamolo per l'ennesima volta, non è affidato a giudici terzi nel caso del contenzioso tributario, non è così. Ovviamente il giudice terzo rispetto all'amministrazione tributaria totalmente indipendente non ha queste caratteristiche. È un contenzioso un po' particolare, visto che per decidere di fare questo azzardo temerario di negare le pretese che vengono avanzate dall'apparato invece dello Stato tributario, bisogna, per il solo fatto di scendere in lizza contro l'apparato tributario, versare un terzo della pretesa della controparte. Quindi già bisogna esporsi naturalmente molto. Naturalmente chi non può esporre gli conviene transare e pagare subito, senza neanche avere l'azzardo di un contenzioso non paritario come quello tributario. Della sua esperienza professionale, Silvio Ceci, come mai gli italiani hanno finito per accettare nei decenni un'evoluzione, un impianto di un ordinamento del contenzioso tributario che non ha eguali in nessun paese avanzato da questo punto di vista? Quanto a mancanza dei più elementari principi di rispetto dell'equilibrio e della terzietà e del rispetto di tutto ciò che invece poi, per esempio, nel codice di procedura penale e anche nelle assunzioni costituzionali per il rito penale è stato assunto il diritto al giusto processo, per esempio. Voglio riferirmi a questo. Perché negli altri riti italiani se ne è parlato così tanto, la politica è esplosa, si è divisa, fior di commissioni per la riforma dei codici, e invece l'ordinamento tributario lo subiamo tutti così? Forse perché è giusto, perché avvertiamo che lo Stato ha sempre ragione, perché siamo noi ad avere torto, oppure perché abbiamo commesso qualche errore anche dal punto di vista della dottrina, della scienza, dell'organizzazione delle professioni che dovrebbero poi costituire i pilastri della difesa dei diritti del cittadino contribuente nei confronti di uno Stato che è assetato e quindi di fronte al quale i giudici dicono se ha sete è più probabile che abbia ragione lui. Beh, diciamo, nella mia esperienza devo dire che negli ultimi anni un po' questa sensibilità è avanzata. Il discorso è che anche le organizzazioni professionali sono state un po' assenti su questo frangente, non hanno mai fatto, diciamo, come dire, un baluardo nei confronti dei contribuenti. Devo dire che negli ultimi 4-5 anni l'esazione del fisco è diventata più decisa e più organizzata. Quindi si è passato da un accesso all'altro. L'Equitalia fino a 4-5 anni fa faceva fatica a recuperare, ad utilizzare dei mezzi, diciamo, coattivi e ordinari, e adesso si è un po' più organizzata, quindi diventa più profonda, più sensibile, e quindi emergono subito e più immediatamente alcune diciamo modalità. Comunque il discorso è annoso. Il discorso della giustizia tributaria è un problema veramente di civiltà, perché, come lei ha giustamente anticipato, il contribuente nel processo tributario ha di fronte, diciamo, l'agenzia delle entrate e poi un giudice tributario che dipende direttamente dal Ministero delle Finanze e dell'Economia. Quindi il contribuente nel processo è contro due parti, cioè ha quasi sempre di fronte contro il giudice, diciamo, il giudice è sempre in buona fede. Sempre buona fede, il giudice e l'agenzia delle entrate. Quindi è veramente il processo, è un processo squilibrato, e la politica è molto assente su questo. Comunque ci sono state delle battaglie, ci sono delle associazioni che si battono, e bisognerebbe compensare e recuperare questo deficit proprio di civiltà e di dignità nel processo tributario. Grazie a Ceci. Io voglio dire a tutti gli ascoltatori che mi stanno mandando i messaggi dicendo: ti stai scaldando troppo perché parli solo di te, lo sappiamo che sei una partita IVA e due piccole società, però tu devi capire che noi al reddito dipendente li consideriamo come fin troppo liberi rispetto a noi. Guardate che io protesto con la stessa veemenza per ciò che vi viene tolto a voi sottoposti al sostituto d'imposta, e che grazie a questo meccanismo, guardate solo al netto e non al lordo, perché tante volte vi ho detto che considero un esempio l'imprenditore friulano che da solo ha rifiutato di fare il sostituto d'imposta e ha iniziato a dare il lordo ai propri dipendenti, così rendendoli liberi e dandogli addirittura le istruzioni su come compilare poi il proprio dovere fiscale, come assolvere il proprio dovere fiscale contribuendo direttamente, in maniera che si rendessero conto dell'oltre 50% che lo Stato gli acchiappava tra imposte e contributi rispetto al lordo aziendale. E garantisco che se questo fosse il meccanismo avremmo le piazze piene di milioni di italiani che invece si sono fatti dividere dal sostituto d'imposta, si fanno prendere per il naso dalla campagna di odio sociale per il quale saremmo noi colpevoli e voi le vittime sottoposti al sostituto d'imposta. Se tutti quanti dovessero assolvere al debito fiscale come noi dobbiamo fare, naturalmente con gli anticipi, gli acconti, i conguagli e il terrore delle continue ispezioni e verifiche giustamente dovute al fatto che lo Stato le sue spese non le taglia e sostiene che il debito pubblico lo deve risolvere con i nostri aumenti in conto corrente e non con le sue proprietà in conto capitale, allora se tutto questo avvenisse io sarei convinto che in poche settimane c'è il ribaltamento del regime politico italiano, perché milioni di lavoratori dipendenti di fronte all'ordo nelle loro mani e dovendo a quel punto loro prendere euro su euro oltre il 50% per darlo alla politica pro tempore che è lo Stato, perché lo Stato è solo la politica pro tempore. Io sono di quest'idea, non credo affatto nello Stato persona, nello spirito della storia ed etico. So che tanti di voi, la maggioranza, invece sono convinti che esista questa suprema incarnazione del bene che sarebbe lo Stato, per cui siete felici di contribuire invece a quelle che per me sono eccessi di spesa pro tempore determinati da politici che pensano al loro interesse e da un'amministrazione pubblica che della superfetazione, della sua intermediazione, dei suoi poteri di interpretazione, del fatto di farsi dare ragione anche nelle sue pretese fiscali esose da un'interpretazione di norme che direbbero il contrario nella nostra Costituzione, quello costituisce la vera rendita di posizione di fronte alla quale, secondo me, noi siamo diventati sempre più schiavi e sudditi, divisi, perché divide et impera è da sempre l'arma dei tiranni, ladri, né dal punto di vista fiscale. Il nostro paese ha sconfinato da anni la soglia oltre la quale c'è una somma di incentivi dall'intermediazione pubblica almeno che pareggia quella di disincentivi. Quando si supera il 40% e quando poi si arriva al 50%, i disincentivi per qualunque teoria economica superano gli incentivi. Questa è la condizione del nostro paese, di cui la barbarie fiscale è il termometro. E guardate, lo dico per la 101ª volta prima di andare in pubblicità e passare poi al secondo ospite, tutto questo, la veemenza con cui ce ne occupiamo da questi microfoni finché potremo, non ha niente a che fare con la mancanza di rispetto e anzi con il riconoscimento e la riconoscenza, il riconoscimento della capacità, dell'attitudine e della dedizione con cui negli ultimi 10 anni a questa parte la squadra che ha la testa dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia e che ha congegnato e messo in opera la ristrutturazione e la riorganizzazione delle agenzie in cui si articola l'apparato tributario dello Stato, il riconoscimento che hanno fatto un'opera straordinaria rispetto alle condizioni pietose in cui stava l'amministrazione tributaria prima di loro. Quindi parlo di Attilio Befera e di tutti quelli che cooperano con lui da anni, confermati dai governi di diverso colore, non a caso per la dedizione e l'intelligenza che hanno messo e mettono in tutto questo, e anche con la riconoscenza per tutto quello che fanno. Non c'entra niente, non è con loro che noi abbiamo una battaglia aperta, è con i principi del nostro ordinamento calpestati ed è contro questa pietosa bugia che anche il governo attuale, come quelli di centrodestra, di centrosinistra e del governo Amato e dai Ciampi di 20 anni fa, mantengono in piedi, quella dell'intangibilità della spesa e quindi della legittimità assoluta di qualunque pretesa fiscale dello Stato dalle nostre tasche, siano esse sottoposte al sostituto d'imposta, siano invece quelle di autonomi, professionisti, commercianti, imprenditori, due parti d'Italia che devono concepirsi insieme, non separate da un tiranno esoso. Ed ecco, eccoci tornati in studio. Volete un esempio della facilità con cui anche noi della stampa soggiacciamo con qualche difetto di precisione al mantra della lotta all'evasione? Eccolo qua, ve lo propongo subito. Pagina 6, il Corriere della Sera di oggi. Pagina 6, c'è un box in fondo alla pagina. Il sottosegretario alla presidenza, Catricalà, 2 punti. 13 miliardi di imposte sono stati recuperati da novembre. Chiunque legge questo titolo comprende che il recupero è i maggiori incassi da lotte all'evasione. Faccio notare che chi compie il nostro mestiere dovrebbe sapere che è giustamente considerato un grande successo l'aumento degli incassi ad opera delle persone che ho detto prima, Befera e tutti coloro che cooperano con lui, che è arrivato alla somma di 11 miliardi nell'anno scorso, partendo da una somma che era di 5 miliardi pochissimi anni prima, 5 anni prima. Allora, se uno legge il titolo del Corriere della Sera di oggi, capisce che da novembre, queste sono le parole di Catricalà, a febbraio siamo passati, novembre, quindi dicembre, gennaio, febbraio, in tre mesi a 13 miliardi recuperati, 13 miliardi in tre mesi rispetto a 11 miliardi in 12 mesi precedenti, considerati un grande successo, perché più che raddoppiando i 5 miliardi di 5 anni prima. Naturalmente, leggendo poi l'articolo, si capisce che Catricalà ha detto che si tratta invece di imposte nuove accertate da parte dell'amministrazione tributaria, e cioè è la pretesa di imponibile evaso che è stata indicata dalle agenzie di entrate, tutt'altra cosa rispetto a 13 miliardi recuperati. E di questi sbagli, assolutamente in buona fede, che si nutre e si gonfia la vela della grande mantra, capite, della lotta all'evasione, che va condotto, è sacrosanto, per carità, ma che quando si fonda poi su regole asimmetriche, come quelle che abbiamo visto nel caso Laurenti, deve indurci a riflettere sul fatto che lo Stato è grazie a questo che non diminuisce mai la spesa, è grazie a questo che non cede i suoi asset per il debito pubblico, è grazie a questo che vi ha convinto che ci vuole la patrimoniale ulteriore, come se non bastassero quelle che sono entrate nel nostro ordinamento, mentre si alza la pressione fiscale ordinaria, sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta, con gli aumenti dell'IVA già deliberati, e anche con le diverse patrimoniali. Non è così che vive in maniera ordinata un ordinamento fiscale, perché bisogna stabilire quali dei pilastri, diretti, indiretti, patrimoniali, devono essere prevalenti su una matrice ordinata di effetti di incentivo e disincentivo, che a seconda di come lo si imposta un sistema fiscale deve avere per essere favorevole alla crescita. Se invece si aumenta l'imposizione semplicemente su tutto e dovunque si possa, beh, l'effetto è chiaro, la recessione aumenta, non si deve solo a questo, ma questo la appesantisce, perché c'è un quadro europeo preoccupante, lo abbiamo detto. E a proposito di quanto sia preoccupante, vi faccio notare che sui giornali spagnoli, a proposito dei Dors e così via, sul País trovate, ma anche sul Mundo trovate con abbondanza l'emergere oggi della notizia nuova, cioè che la Spagna sarà costretta con ogni probabilità a chiedere il sostegno dell'ESM, il nuovo sostegno salva stati che entra dopo l'FSF tra tre mesi in funzione, e a dare questa notizia ai giornali spagnoli si identifica una fonte abbastanza autorevole, con ogni probabilità è il commissario alla concorrenza europeo Joaquín Almunia ad aver lasciato trasparire queste opinioni, che naturalmente accendono enormemente il dibattito spagnolo, e rimbalzano, rischiano di rimbalzare, perché gli spread avete visto che da qualche settimana hanno ripreso a risalire. Detto questo, anche il dibattito tedesco riprende un po' di suspense su come l'SPD interverrà sul calendario del voto per il trattato fiscale, tenendo un po' sospeso, per così dire, il governo di Angela Merkel. E infine vi rimando al Financial Times invece, che c'ha una lunga analisi dettagliata sulle parti oscure delle aste di liquidità, quelle grazie alle quali a gennaio e febbraio la BCE di Draghi ha dato un trilione di euro ai mercati, che hanno, quello sì, fatto cambiare l'atmosfera generale, e troverete descritte in molti particolari, anche un po' inquietanti, come attraverso le aste di liquidità si aggiri il divieto di sostegno diretto ai governi. Le banche in realtà incamerano una quota di intermediazione molto elevata rispetto alla liquidità che prendono, così bassa rispetto ai loro impieghi. Nel frattempo risolvono i problemi degli stati risaturando le banche, le aste pubbliche, anche se il totale dei titoli pubblici è molto sceso nei loro asset. E la conclusione di tutto tutto questo è che dopo essersi ricapitalizzate loro, portare a casa bei margini le banche, aver risolto il problema indiretto agli stati aggirando il divieto tedesco, il risultato è che però il credit crunch resta poi per le imprese e per le famiglie. Torniamo al tema il tema di oggi, il caso Laurenti come emblema della simmetria nel contenzioso tributario. È con noi Elena Polidori, l'abbiamo già invitata più volte, è giornalista del Quotidiano Nazionale, autrice di libri come Resistere a Equitalia e più recentemente Evasori Pagate, libri che l'hanno esposta a polemica perché poi Equitalia ha iniziato anche a scocciarsi, a dire qui c'è gente che racconta storie, c'è gente che ci infama, più volte i vertici di Equitalia hanno messo nel mirino chi fa propaganda, pubblicità, politici locali che agitano queste campagne e anche giornalisti un po' come me che ritengono in questo di levare la voce vengono additati come facili demagoghi. Prendo su di me l'accusa perché ne voglio invece sollevare Elena Polidori, che ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno. Ma non mi sollevare, buongiorno a tutti, no, non mi sollevare perché anche io me la prendo volentieri un po' questa accusa di essere demagoga, peccato che poi alla fine abbiamo ragione noi, no? Quello che tu, di cui tu parlavi prima, cioè il caso Laurenti, in piccolo un po' riguarda tutti noi tartassati, perché se tu pensi che io per esempio sono anche io una vittima di Equitalia, no? Allora, essendo una vittima di Equitalia, Equitalia mi ha messo l'ipoteca sulla casa perché io non avevo pagato delle multe al Comune di Roma. Ebbene, quando io ho avuto ragione, perché quelle multe in parte erano prescritte, in parte erano state pagate, ebbene Equitalia mi ha detto, cara Elena, però tu io l'ipoteca non te la tolgo dalla casa, a meno che tu non paghi il denaro che mi è costato mettere l'ipoteca sulla tua casa a livello di bollo, a livello di imposta di registro, a livello di mora, eccetera eccetera. Per cui adesso c'è un contenzioso aperto perché io non vedo per quale motivo l'ipoteca che è stata messa sulla mia casa in maniera assolutamente illegittima deve essere pagata da me quando l'errore l'ha commesso lo Stato. Allora vedi che poi il discorso anche della differenza di calibro e di quel fatto che dicevi tu giustamente prima, cioè che lo Stato in qualche maniera vince sempre e che siamo di fronte a una sperequazione del diritto, ebbene ecco, questa è una cosa che dovrebbe indignare comunque tutti quanti, così come non può non indignare il fatto che, insomma, una notizia che ti do, che probabilmente ieri non hai colto, che ti è sfuggita, e le tasse continuano ad aumentare, perché ieri durante la discussione in Commissione Affari Costituzionali del Senato si discuteva il DDL semplificazioni, è stato dato il via libera a un'ennesima tassa, la cosiddetta tassa di calamità, ovvero la tassa che in alcune zone tipo l'Aquila, dove c'è stato il terremoto per esempio, può essere messa a livello di accisa nuova sul prezzo del carburante, cioè cornuti e mazziati mi verrebbe da dire per i poveri abitanti dell'Aquila, ma anche per tutte le altre zone tipo anche Genova che sono state soggette ultimamente appunto a delle calamità naturali, perché oltre al fatto di dover ricostruire tutto quanto si potrebbero vedere inserire un'accisa regionale come tassa di sgrazia, bene o male, sulla benzina. Allora, insomma, la situazione sta aumentando e sta diventando una pressione in un crescendo rossiniano che, insomma, deve portare necessariamente a un'indignazione. Il caso Laurenti è un caso emblematico, così come fa un po' tenerezza, se vogliamo, ma anche un po' rabbia, l'altro caso emblematico che è uscito ieri sui giornali e che è quello di Emilio Fede, che sarebbe stato beccato, lui nega ovviamente ogni addebito, con delle valigette piene di soldi sulla via della Svizzera. Ecco, anche quello deve fare anche un po' riflettere. No, per carità, anche perché poi le risposte di Emilio Fede, di fronte al quale io naturalmente sono incapace oramai di capire che cosa sia realtà e che cosa sia fantasia, perché tante volte la prima è stata superata dalla seconda in una rincorsa di cui mi sono poi alla fine stancato con un grande giramento di testa di capire cosa sia reale e che cosa non lo sia, ha fatto quasi intendere che sia un gossip che viene per vendetta dagli ambienti di Lele Mora, se ho capito bene una sua battuta allusiva a servizietti di non so che tipo, perché cioè, certo stiamo parlando di qualche cosa che non può che fare grattare la testa a vasta parte del pubblico di fronte che poi questo sia un ipotetico comportamento che fa parte di un certo ambito, non lo so, insomma, per me è un direttore non dovrebbe mai poter essere collegabile a cose di questo genere, però magari sbaglio io, che volete dire. Ma no, ma non è una questione di essere più o meno collegati, è che credo che i colleghi che hanno scritto questa notizia sui giornali, di cui alcuni conosco il valore, non credo che si sarebbero messi al soldo di L'Elenora per fare no, un dispetto. Cioè, stiamo parlando di Fiorenza Sarzanini, stiamo parlando di Ruotolo sulla Sabbia, non lo so, però insomma... Esatto, esattamente di loro, però insomma questo ecco, lasciamo che poi la giustizia, in questo caso anche tributaria, perché sai meglio di me che ah, in questo certo, caso poi scatta, se uno va con valigette. Esatto, diciamo che è anche un po' goffo come comportamento dell'evasore medio, insomma, però insomma, l'Italia è fatta anche di queste figure. Devo dirti che comunque, al di là di tutto, quello che stringe il cuore in questo periodo è proprio il fatto che comunque c'è un governo che si vanta in maniera anche, devo dirti, esecrabile, perché le parole che ieri ha pronunciato Catricalà a Ballarò, che tu hai ripetuto prima, su questi 4 mesi di fulgidi risultati sulla lotta all'evasione, ecco, mi hanno fatto tremare i polsi per un motivo molto semplice, perché contemporaneamente, la mattina stessa, molti lavoratori dipendenti avevano trovato le loro buste paga decurtate ulteriormente di addizionali IRPEF, che per molti che guadagnano sui 1.500 euro, che è più o meno, Oscar, correggimi se sbaglio, la media degli stipendi anche statali italiani, di 100-150 euro. Qui allora, una differenza molto molto sensibile. Ci dobbiamo fermare qua, siamo in ritardo, informazioni sulle strade. Eccoci qui, tornare con Dors per la chiusura. Sentiamo rapidamente qualche ascoltatore, poi un ultimo commento da Elena, poi Elena Polidori. Domenico, da chi ci chiama dalla provincia di Bari. Prego Domenico. Salve, io sono un avvocato, un libero professionista, e ho un unico dipendente, e per il fatto di avere questo unico dipendente pago moltissimi soldi di IRAP, ed è evidente, diciamo, l'effetto recessivo che ha questa tassa. Non si può ritenere di avere un'organizzazione per il solo fatto di avere un unico dipendente, e infatti moltissimi miei colleghi ricorrono ad altri espedienti, da quelli più radicali di non ingaggiare il proprio dipendente per evitare di pagare l'IRAP e una serie di altri costi, a quelli meno radicali ma altrettanto esecrabili, che sono quelli per esempio di far fare le partite, diciamo di far aprire partite IVA. Ieri si parlava per esempio a Ballarò di questo problema, di queste partite IVA fasulle sostanzialmente, ma è chiaro che se c'è un'imposizione così pesante si è costretti ad arrivare a tanto. E io credo che, tra l'altro, facendo l'attività di avvocato, ho sotto gli occhi le numerose disparità di trattamento fra anche rispetto a un processo penale. Non c'è dubbio. Aspetta Domenico, interrompo, sentiamo Erminia da Napoli. Nel frattempo arrivano a raffiche. Giannino, stamattina è meglio che stavi a casa. Pallone gonfiato, schiavo degli evasori, buffone. Beh, devo dire che sono riuscito a farvi arrabbiare. Mi fa piacere. Uscite fuori e contatevi. Dite che siete per questo stato asimmetrico e avrò raggiunto il mio obiettivo. È per questo che programmaticamente cambio tono di voce quando faccio queste trasmissioni. Devo dire la verità, i vostri inviti a smetterla e a cacciarmi mi rendono onore, e quando ci riuscirete sarete più felici e più schiavi, perché questo è il destino degli schiavi: credere di essere felici perché un padrone li affama alla catena. State contenti, quelli che tra voi credono che questo stato superiore etico valga la pena di tutto questo non si rendono conto, stanno forgiando le catene di cui avete già intorno al collo e ai piedi il peso. Poi se volete morire affogati con queste catene in nome della superiorità etica dello Stato, fate pure, quando mi cacceranno tra poco sarete felici. Allora, Erminia da Napoli, prego Erminia. Buongiorno a tutti, io sono un promotore finanziario, ho sempre pagato l'IRAP consigliata dal mio commercialista. A un certo punto però, non avendo nessuna organizzazione, perché lavoro io col mio cellulare, la mia auto e il computer, e usufruendo poi dei locali della banca, appunto non dovevo, secondo me, pagare l'IRAP perché non ho neanche nessun dipendente. E invece? E ho fatto ricorso, ho vinto questo ricorso alla commissione tributaria, ho fatto l'istanza 2 anni fa per il rimborso degli IRAP pagati. Risultato? Risultato, non, ancora non ho visto niente dopo 2 anni, e risultato ancora peggiore, che non posso compensare questi circa 2.800 euro. Eppure, Erminia, ci dicono che naturalmente noi siamo dalla parte degli evasori. Elena, come se ne esce? Come dobbiamo fare? Abbassare la testa? Quelli come me, come te? Ma neanche per idea, cioè forse quello che dicevi prima, la nostra gloria sarà quando riusciremo a far capire a esatto, tutti quanti esatto. che sono tutti schiavi. Va bene, adesso speriamo di non dover fare i martiri, a me basta fare la vittima, ma fatemi rimanere in vita, per il resto che lo Stato si prenda tutto se voi siete dalla loro parte. Io no, mai a questo Stato. A domani.